Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Dopo aver cenato in una bottiglieria presso l'Arco di Trionfo dell'Étoile, Duroy tornò a casa a piedi, passo passo, prendendo i boulevard esterni, e si mise a tavolino per lavorare. Ma com'ebbe sotto gli occhi il gran foglio bianco, tutto il materiale che aveva accumulato, gli volò via di mente, quasi gli fosse svanito il cervello. Dopo un'ora di vani tentativi, e dopo aver riempito 5 cartelle di frasi d'avvio che non trovavano un seguito, pensò: «Non sono ancora abbastanza rotto al mestiere. Devo prendere un'altra lezione». E subito la prospettiva d'un'altra mattinata di lavoro con la signora Forestier e la lusinga d'un lungo colloquio a due, intimo, cordiale e così dolce, lo fecero fremere di desiderio. Si coricò molto presto, quasi temendo adesso di rimettersi al lavoro e di farcela tutta un tratto. L'indomattina si alzò sul tardi, cercando di ritardare e di pregustare il piacere della visita. Erano le 10 passate quando suonò a casa dell'amico. Il domestico rispose: «Veramente il signore sta lavorando?» A Duroy non era neppure passato per la mente che potesse esserci il marito. Tuttavia insisté: «Gli dica che sono io, per una cosa urgente!» Dopo 5 minuti d'anticamera, fu fatto entrare nello studio dove aveva trascorso una così bella mattinata. Duroy, fermatosi sulla soglia, mormorò: «Scusate, scusate molto, disturbo!» L'amico, voltatosi verso di lui, furibondo, ringhiò: «Beh, che ti manca ancora? Spicciati, abbiamo fretta!» L'altro, confuso, si mise a barbugliare: «Niente, niente, scusami!» Ma Forestier, arrabbiandosi ancora di più, disse: «Avanti, per Dio, non perdiamo altro tempo! Non avrai mica forzato la mia porta soltanto per il gusto di darci il buongiorno!» Allora Duroy, turbatissimo, si sbottonò: «No! Ecco, vedete, volevo dire che non ce la fo nemmeno questa volta a buttar giù l'articolo. E tu sei stato, voi siete stati così, così gentili l'ultima volta che speravo, che ho osato venire!» Forestier gli troncò la parola in bocca: «Ma insomma, tu vuoi proprio prendere per il bavero la gente? Credi che il tuo lavoro te lo debba fare io e che per te tutto si riduca a passare alla cassa alla fine del mese? Questa sì che è bella!» Duroy, rosso come un papavero, continuava a incheccarsi: «Scusatemi, credevo, pensavo che...» Finché d'improvviso, con voce chiara, fece: «Le chiedo mille volte scusa, signora, e le rinnovo i miei ringraziamenti per il bell'articolo che mi ha dettato ieri». Poi salutò ed uscì, dopo aver detto a Charles: «Sarò al giornale alle 3. Tornò a casa a passo svelto, bofonchiando fra i denti: «Ebbene, me lo scriverò da solo, gli mostrerò io!» Appena in camera, sotto l'eccitazione della collera, si mise a scrivere. Ripigliò l'avventura già cominciata dalla signora Forestier, ammucchiando particolari da romanzo d'appendice, strabilianti peripezie e descrizioni ampollose, con la scioltezza stilistica d'un collegiale e la proprietà d'un sergente maggiore. In un'ora imbastì un articolo che pareva uscito da un manicomio e lo portò, baldanzoso, alla Vie Française. Quando uscì, era già giorno fatto, e il suo primo pensiero fu di comprare la Vie Française. Aprì il giornale con mano febbrile. Il suo articolo non c'era, e se ne rimase lì, ritto sul marciapiede, a scorrere ansiosamente le colonne stampate, nella vana speranza di trovarvi quel che andava cercando. Tornato a casa, si buttò sul letto vestito com'era e s'addormentò. Entrato qualche ora dopo in redazione, andò da Voltaire: «Mi sono meravigliato molto di non aver visto stamani il mio articolo sull'Algeria». Il direttore sollevò il capo e fece asciutto. L'avevo dato al suo amico forestier perché lo leggesse. Non gli è parso all'altezza. Dovrà essere rifatto. Duroy, fuor di sé, uscì senza rispondere una parola. Ed entrato bruscamente nella stanza del collega, «Perché?» l'apostrofò. «Non hai fatto uscire stamani il mio pezzo?» Il giornalista stava fumando una sigaretta, sprofondato nella poltrona e coi piedi sulla scrivania, imbrattando coi tacchi l'articolo che aveva cominciato. Con voce annoiata e distante, quasi parlasse da una buca, scandì tranquillamente. «Al capo non è piaciuto. M'ha detto di restituirtelo perché tu lo rifaccia. Prendilo, eccolo là». E gli mostrò col dito i fogli spiegati sotto un fermacarte. Duroy, confuso, rimase a bocca aperta. E mentre si rimetteva in tasca la sua prosa, udì Forestier soggiungere: «Oggi andrai prima di tutto in questura». Gli snocciolò una filastrocca di commissioni da sbrigare e di notizie da raccogliere. E Duroy se n'andò, senza essere riuscito a trovare quella parola sferzante che avrebbe voluto gettargli in faccia. Riportò l'articolo l'indomani. Gli venne di nuovo restituito. Lo rifece per una terza volta e, vedendoselo rifiutare ancora, capì che voleva correre troppo e che soltanto la mano di Forestier avrebbe potuto aiutarlo sulla sua strada. Così non parlò più dei ricordi d'un cacciatore d'Africa e si ripromise d'essere docile e scaltro, giacché quella era la via, e di far con zelo, in attesa di meglio, il suo mestiere di reporter. Conobbe i retroscena dei teatri e quelli della politica, i corridoi e i vestiboli degli uomini di Stato e della Camera dei Deputati, le facce importanti dei segretari di gabinetto e i musi aggrottati degli uscieri insonnoliti. Divenne in breve tempo un reporter di notevole valore, sicuro delle sue informazioni, astuto, svelto, sagace, veramente prezioso per il giornale, come diceva zi Walter, che di redattori se ne intendeva. Ma ciononostante, coi suoi 10 centesimi la riga e i 200 franchi di stipendio fisso, dato anche il costo della vita di caffè e di ristorante sul boulevard, era sempre in bolletta e non se ne dava pace. «Devo imparare il trucco anch'io», pensava, scorgendo certi suoi colleghi sempre con le tasche gonfie d'oro, senza peraltro riuscir mai a capire a quali segreti espedienti essi ricorressero per procacciarsi tanta agiatezza. E pieno d'invidia, immaginava intrallazzi a lui ignoti ed equivoci, ricompense per favori fatti, tutto un commercio illecito ma pur accettato e consentito. Già, doveva penetrare il mistero, entrarne la tacita associazione, imporsi ai colleghi che si dividevano la torta senza di lui. E più d'una volta gli capitò di pensare, la sera, mentre alla finestra guardava passare i treni, ai metodi che avrebbe potuto usare. 2 mesi erano già trascorsi. Settembre era alle porte. E a Duroy pareva che la rapida fortuna da lui sperata si facesse un po' troppo desiderare. Lo innervosiva, più che altro, la sua mediocre posizione morale e non vedeva per quali vie avrebbe potuto arrampicarsi lassù in alto, dove uno trova considerazione e quattrini. Si sentiva chiuso nel suo modesto mestieruccio di reporter, prigioniero di quello senza possibilità d'evasione. Era stimato, ma d'una stima adeguata al rango. Lo stesso Forestier, al quale si rendeva utile in 1000 modi, non lo invitava più a cena. Lo trattava in tutto e per tutto come un inferiore, anche se continuava a dargli del tu come ad un amico. Più d'una volta aveva pensato di andare dalla signora Forestier, ma il ricordo dell'ultimo incontro lo gelava, lo mortificava, senza contare che aspettava d'essere invitato dal marito. Gli venne allora a mente che la signora De Marelle l'aveva pregato d'andarla a trovare e lei si presentò un pomeriggio che aveva libero. «Fino alle 3 sono sempre in casa», gli aveva detto costei. Alle 2:30 stava già suonando alla sua porta. Abitava in Rue de Verneuil, al 4° piano. Allo squillo del campanello venne ad aprirgli la donna. Una servetta spettinata che gli rispose, allacciandosi la cuffia, «Sì, la signora è in casa, ma non so se è già alzata». E spinse l'uscio del salotto, che era soltanto accostato. Giroua entrò. Il vano era abbastanza grande, con pochi mobili e piuttosto trasandato. Poi s'aprì un uscio e la signora De Marelle entrò di corsa, avvolta in una vestaglia giapponese di seta rosa, con paesaggi ricamati in oro, fiori azzurri, uccelli bianchi, ed esclamò: «Ma lo sa che ero ancora a letto? Carino da parte sua venirmi a trovare. Credevo proprio d'essere passata nel dimenticatoio». Gli porse entrambe le mani, felice di vederlo, e Duroy, messo a proprio agio dall'aspetto modesto dell'appartamento, gliele prese fra le sue e ne baciò una come aveva visto fare da Norbert de Varenne. Lo pregò di sedersi, poi, datagli un'occhiata da capo a piedi, «Com'è cambiato?» disse. «Ha acquistato. L'aria di Parigi le giova. Su, mi racconti tutte le novità». E subito si misero a chiacchierare come vecchi conoscenti, sentendo nascere fra loro una subitanea confidenza e stabilirsi quella corrente di reciproca fiducia, di intimità e di simpatia che in 5 minuti trasforma in 2 amici 2 persone dello stesso carattere e dello stesso stampo. D'un tratto la giovane signora interruppe il suo chiacchierio e tutta stupita esclamò: «Strano quel che mi succede con lei. Mi sembra di conoscerla da una 10 anni. Diventeremo di sicuro buoni compagni, vero?» «Certo», rispose lui con un sorriso che voleva dire molto di più. Qualcuno bussò piano piano, con estrema delicatezza, allo stesso uscio dal quale era apparsa lei. La signora De Marelle gridò: «Puoi entrare, amoruccio!» Era la figlia, che corse dritta verso Duroy porgendogli la mano. La madre, stupita, mormorò: «Ma lei è un conquistatore! Mia figlia non la riconosco più!» Il nostro giovanotto, dopo aver dato un bacio alla piccina, se la fece sedere accanto e serio, serio, le rivolse qualche garbata domanda su ciò che aveva fatto dall'ultima volta che s'eran visti. La pendola suonò le 3. Il nostro giornalista si alzò. «Venga spesso», lo pregò la signora De Marelle. «Chiacchiereremo come quest'oggi. Lei mi farà sempre piacere. Ma perché non si fa più vivo dai forestier?» «Oh, così», rispose lui. «Ho avuto molto da fare, ma spero che uno di questi giorni possiamo di nuovo incontrarci là». E uscì col cuore gonfio di speranza, senza sapere nemmeno lui perché. A Forestier non disse nulla di quella visita, ma ne serbò il ricordo nei giorni che seguirono. Più che il ricordo, quasi la sensazione fisica d'un'irreale ma ostinata presenza di quella donna. Gli pareva d'aver portato con sé qualcosa di lei, l'immagine del suo corpo rimastagli negli occhi, il profumo del suo animo rimastogli in cuore. Tornò a farle visita qualche giorno dopo. La domestica lo fece passare in salotto e subito apparve Lorine. Non gli porse la mano questa volta, ma la fronte. «La mamma m'ha incaricato di pregarla ad aspettare un momento. Ne avrà per 15 minuti, perché deve vestirsi. Le farò compagnia io». La signora De Marelle entrò e, meravigliata, «Oh, Lorine! Lorine che gioca! Ma lei è un mago!» Duroy posò a terra la piccola, baciò la mano alla madre ed entrambi si sedettero con Lorine nel mezzo. cercarono di parlare, ma la bimba, ancora inebriata, non la smetteva più col suo cicaleccio, lei che di solito era così taciturna, e dovettero spedirla nella sua cameretta. Rimasti soli, la signora De Marella abbassò la voce. «Ho un gran progetto, sa? E ho pensato anche a lei. Ecco, una volta alla settimana i forestieri mi invitano a cena e io li contraccambio in un ristorante ogni tanto. Aver gente per casa non mi piace. Di quando in quando, dicevo, invito i forestieri in trattoria. Ma è malinconico essere noi tre soli e la gente che conosco io non lega troppo con loro». Le dico questo per giustificarle un invito che magari non le sembrerà in perfetta regola. Avrà già capito, no? Le chiedo d'essere dei nostri sabato alle 7:30 al caffè ristorante Riche. Lo conosce il locale? George accettò felice e lei proseguì. Saremo soltanto in quattro, coppia contro coppia. Per noi donne che non ci siamo avvezze, sono festicciole molto divertenti. Indossava un abito marrone scuro, aderente alla vita, ai fianchi, al petto, alle braccia, provocante civettuolo. E il contrasto fra quell'eleganza così accurata e raffinata e la trascuratezza che saltava agli occhi dell'appartamento da lei abitato stupiva e confondeva Duroy, quasi lo metteva in imbarazzo senza capire perché. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.